Sotto a sto cielo azzurro camminiamo ancora, tra l'antiche strade di Napoli e lo vento d'estate, con la chitarra a mano canto tuo nome d'amore, come una nota fina che scivola tra i cori. Insieme a te volavo sopra l'onde d'oro e sale, vinti raggi d'alba tra l'arbore e il mare, e ogni suono che scanta, ogni corda che vibra mi porta a te amore fino alla libertà. Miramucci d'ulivi sussurrano ricordi, i lecchi di risati galli gravano i vie, ma pure le lacrime spinti da stucori diventano musica pure quando non voglio. Insieme a te volavo sopra l'onde d'oro e sale, vinti raggi d'alba tra l'arbore e il mare, e ogni suono che scanta, ogni corda che vibra mi porta a te amore fino alla libertà. Ora chiuso l'occhio e sento un fiato d'un vento che canta tra i timpani di le vecchie pietre, e mi ricorda che l'amore è più forte d'ogni catena, e che se sotto sto cielo azzurro insieme ancora, tra l'antichi strati Napoli e lo vento d'estate, con la chitarra a mano canto tuo nome d'amore, e resto con te fino alla libertà.